arriva, cioè possiamo abbassare un po'. Benvenuti a tutti, soprattutto a Giovanni Vumin 2, Federico Vumin 4 e Franco Berardi. Io faccio semplicemente una piccola presentazione in modo da non rubare spazio alla discussione. Innanzitutto di presentazione di Book, perché immagino che per molti di voi sia la prima volta che venite a Book, ad Open Book, visto che grazie al cielo l'abbiamo fatta all'aperto. Appunto, Book è una biblioteca occupata di quartiere, una biblioficina occupata di quartiere, nata il 1° giugno per come dire, la volontà di alcune persone, la maggior parte delle quali abitanti nel quartiere, di come dire, prendersi cura di uno spazio abbandonato di questa città, come ce ne sono a decine, penso all'ex Bimba, all'ex Expa, solo in questa via, oppure in un quartiere in cui servizi basilari come la ludoteca di Villa Garibaldi è chiusa da anni. Appunto, noi pensiamo che anche con un gesto di rottura, come può essere quello di un'occupazione, con un atto esplicitamente illegale, un atto di disobbedienza, come andare ad occupare un posto abbandonato e lasciato marcire per anni, prendersi cura di questo posto sia in qualche modo dia la possibilità di ripensare il nostro modo di vivere questa città. Anche a partire da cose banali, come discutere di un libro, che sembrano cose che in questa città invece sono eclatanti. Appunto, abbiamo organizzato questa rassegna di 3 incontri che si intitola Bookinista, facendo un gioco di parole con Bookinist, appunto i librai che sulla riva della Senna, che appunto metafora di una cultura, come dire, che scende nelle strade. Più in strada di così sarebbe difficile immaginare, appunto per rompere da un lato con un atteggiamento intellettualistico elitario, appunto per cui di certe cose dovrebbe parlare soltanto nei salotti, dall'altro per rompere anche un atteggiamento anti-intellettualistico a Palermo incredibilmente diffuso, in cui, come dire, la rudezza è diventato, come dire, il paradigma dominante, per cui appunto leggere libri o discutere di libri non è una cosa che devono fare gli uomini veri. Noi invece pensiamo che ricominciare da appunto un'idea di un discorso sulla letteratura voglia dire interrogarsi sul nostro costruire mondi immaginari e mondi reali. I prossimi appuntamenti saranno di domenica prossima, che è 19, alle 21 con Nicola La Gioia, che ha appena pubblicato un libro, si intitola La Ferocia, e martedì prossimo, sempre alle 20:30, quindi dopo cena o in serata, diciamo, con Francesco Maino, autore di questo libro Cartongesso, vincitore del premio Calvino. Oggi invece siamo appunto con Vumin 2 e 4 a presentare L'armata dei sonnambuli, ultima fatica di un lungo ciclo di romanzi storici del quartetto bolognese, appunto ambientato all'epoca della Rivoluzione Francese. E non potevamo scegliere il libro migliore da cui partire in una rassegna che, come sotto, a parte perché c'è un Bookinist all'interno del libro che fa un cameo, cosa a cui abbiamo pensato dopo aver scelto il titolo, e poi appunto perché i libri alla strada. La strada è uno dei protagonisti del libro, appunto la Rivoluzione Francese raccontata attraverso, come dire, la voce del popolo, il chiacchiericcio, le donne, raccontando il ruolo delle donne durante la Rivoluzione Francese, il ruolo fondamentale delle donne, raccontando appunto come il teatro usciva dai palcoscenici ufficiali e trovava nella strada il proprio palcoscenico rivoluzionario. E avendo questa forte trama sul mesmerismo, sulla capacità suggestiva appunto dei primi esperimenti di controllo cura della mente di quell'epoca. L'altro ospite della serata è Franco Berardi Bifo, che abbiamo qua grazie a una fortunata coincidenza, al fatto che fra due giorni sarà ospite di un convegno organizzato assieme al laboratorio di gruppo analisi ai cantieri della ZISA, dal titolo L'inutile fatica di essere se stessi, patologie e soggettività del tardo capitalismo. Appunto, questa coincidenza, appena abbiamo visto una recensione, nel giro di pochi giorni abbiamo concordato le due date, abbiamo visto che Franco scriveva una recensione fiume straordinaria che richiederebbe un incontro apposito, la recensione di Franco, abbiamo detto dai, facciamo la carrambata, magari abitano pure vicini di casa a Bologna, ma la facciamo a Palermo la presentazione dei tre bolognesi. Quindi io chiuderei qua, lascerei la parola a Franco, ricordando che appunto 19 la gioia, 21 Maino, il 18 ci abbiamo l'incontro alla ZISA all'interno del delle nuove pratiche feste che comincia domani. Domani c'è un libro sull'accumulazione del capitale di Lucia Pradella, sempre alla ZISA. Questo per dire che se la Commissione europea veniva da noi a valutare la possibilità di candidarci al Capitale europeo della cultura, magari ci pensava un poco di più rispetto alla visita ufficiale che ha fatto prima dell'estate. Passo la parola a Franco. Dunque, vabbè, già ci siamo capiti, sono qui a nessun titolo, se non a titolo di lettore attento, forse, e certamente cocciuto, nel senso che seguo l'esperienza letteraria di questa piccola banda che non so come definire, perché io non posso dire dei Wuming, devo necessariamente dire di un'esperienza che inizia come Luther Blissett e poi modificando molte cose, ma si continua come Wuming, e questo per me è decisivo perché non posso perdere l'origine letteraria, storica anche della attività di coloro che oggi si firmano come Wuming, quindi come lettore. Come lettore fino dalla lettura di Q ho sempre trovato che in questa esperienza ci fosse un nucleo che mi interessava molto, molto da vicino, che non è soltanto, devo dirlo subito, il facilmente leggibile riferimento alla storia dei movimenti nel corso della modernità. Questo è l'elemento più chiaro, che in cui acquisiva una sua energia molto particolare. Confesso che Q resta per me un libro di grande, a cui mi sento molto affezionato, perché quando lessi quel libro in qualche modo dissi a me stesso: beh, insomma, qualcuno ha fatto il lavoro che bisognava fare, cioè qualcuno, io non so scrivere narrativa e me ne sono sempre rimproverato fino al 99, perché mi sono sempre detto: ma cavolo, qua nessuno fa l'operazione che bisogna fare. E poi l'hanno fatto i Luther Blissett con quel libro, e quindi io da quel momento in poi ho vissuto più tranquillo. Qual è l'operazione? Quella di mostrare che nella storia dei movimenti della modernità si incontrano centomila ipotesi differenti, forme di vita differenti, ma in sostanza troviamo da una parte la follia identitaria, paranoica, aggressiva, rappresentata in quel caso da coloro che conducono le comunità anabattiste verso lo scontro finale, ed esiste invece una consapevolezza underground, nascosta, che è quella di Gert del Pozzo, sostanzialmente di tutti quei personaggi che lui va incontrando nella sua lunga esperienza che peraltro continua poi in Altai, e sempre rifuggendo dalla riduzione del movimento a potere, del movimento a politica, a politica dello scontro, a politica della definizione e dell'identità. Quindi con cui avevo avuto come la percezione del fatto che qualcuno era riuscito a cogliere narrativamente quella duplicità, se diciamo così, interna al movimento. Ma è solo poi l'esperienza, quella esperienza letteraria continua con avventure anche molto eterogenee, insomma, chi conosce 54 o The New Thing di Wu Ming-uno o Manituana, che a me piace di meno, ma insomma chi ha seguito sa bene come il mondo di riferimento si anima storicamente di mille cose. Ma solo con L'armata dei sonnambuli ho avuto l'impressione che quella esperienza giungesse a piena espressione, a piena consapevolezza e in qualche modo facesse, vorrei quasi dire, chiudesse il cerchio o concludesse una parabola. Perché? E me lo sono chiesto, mi sono chiesto perché mi fa così più impressione del solito questo libro, e ho tentato anche di darmi alcune risposte che qui io spiattello lì in maniera semplice, se volete, e che però semplici non sono. Perché dunque, prima di tutto c'è qui viene ad emergenza in modo definitivo una caratteristica propriamente stilistica, letteraria, attoriale, posso dire così, una modalità di mettere in scena la storia che è sempre stata presente nelle opere dei Luther Bliss e Wu Ming, ma che solo questa volta diventa così evidente: ve lo si conta noi. È un'espressione che sembra essere una roba da quarta di copertina, e invece tac tac a un certo momento viene fuori nel corso della narrazione e ci permette di fare una azione che, con espressione insomma che fa allusione ad una tecnica letteraria assai più complessa di quanto possa sembrare in un primo momento, viene fuori un narrante, una voce narrante che continuamente si sposta nel corso della narrazione, e dunque ecco che la storia non è mai la stessa, e difatti di capitolo in capitolo c'è sempre qualcosa che non quadra perfettamente, ma per forza, perché è un altro che la sta raccontando e la racconta dal suo punto di vista. Ecco, espediente letterario notevole, ma soprattutto intuizione storica, vorrei quasi dire, storiografica, che ci permette di parlare di storia in una maniera diversa. Io lo dirò, se ci sono qui Giovanni e Federico, quindi lo dico con timidezza, e poi non vorrei che loro mi fraintendessero, però io, dopo aver finito L'armata dei sonnambuli, sono andato a riprendere Guerra e Pace, e giuro che l'ho riletto tutto nel corso dell'estate, dopo aver letto Q e Altai, perché volevo avere la piena percezione. E Guerra e Pace, non ve ne sto a parlare naturalmente, però in quelle 1842 pagine della mia edizione riesce a compiere un'opera, cioè Tolstoi là fa una cosa che noi ritroviamo nel percorso dei Wu Ming, cioè fa interrogare la storia da parte di personaggi che possono esserci antipatici, simpatici, non importa. Tra l'altro in Tolstoi tutti sono simpatici, notate che il più schifoso aristocratico della corte di Pietroburgo ci viene da lui presentato come una voce narrante, è lui, come si chiama il principe, mi dimentico sempre i nomi, è lui perfino il peggiore, si presenta comunque come una voce narrante che ha pieno diritto a raccontarti una storia. Benissimo, questo dunque, diciamo, questa operazione che è sia letteraria che direttamente relativa a un giudizio sulla storia. Beh, che la domanda che Tolstoi fa, poi, ma esiste davvero la storia? C'è la storia? E devo dire che loro non ci hanno pensato, ma in qualche modo nell'Armata dei Sonnambuli, oppure sì, ci hanno pensato, non lo so, nell'Armata dei Sonnambuli c'è una risposta alla domanda, c'è la storia, che è una risposta, diciamo, che permette di parlare di storia uscendone un po' fuori, dicendoci, guardate, è inutile che vi sforzate di capire la rivoluzione francese. La rivoluzione francese mi ha ossessionato. Io poi ho insegnato storia nei licei per tanti anni e la rivoluzione francese non sapevo mai veramente come raccontarla, perché non l'ho mai capita tanto bene. Sono in grado di dirvi giorno per giorno cosa è successo, ma non perché è successo. Ecco, ora il laboratorio Wuming ti permette di capire che cosa c'è da... Perché non bisogna sforzarsi di capire più di quanto sia possibile capire? Perché in realtà non c'è un senso della storia. Ci sono innumerevoli punti di vista che dobbiamo assumere tutti come punti di vista. Uso una parola che mi permette di avvicinarmi alla mia conclusione. Punti di vista schizoanalitici, schizo. Cioè sono tutti punti di vista che vivono la loro sofferenza, la loro euforia, la loro illusione, che magari prende il nome poi di speranza o di ideologia, chiamatela come vi pare, ma ciò che agisce nella storia, direbbe Guattari, è l'inconscio. È un inconscio che non si può spiegare, perché è lui che spiega tutto il resto. Ecco che cosa, diciamo, che cosa l'Armata dei Sonnambuli ci rivela in maniera definitiva. Ma attenzione, non stiamo parlando semplicemente quel libro che molti poi qua avranno già letto, quindi capite di cosa sto parlando. Non dobbiamo pensare che lì si stia parlando solo della Rivoluzione Francese. Certo, l'argomento è quello, ma chi sono? E in quell'argomento noi vediamo scontrarsi eserciti di folli, o vediamo come la follia allegrissima dell'avanguardia artistica cominci lì a delinearsi, forse dentro il Bicêtre, nei manicomi parigini, forse alla Salpêtrière, o forse nell'opera di un attore, questo bolognese strambo che si è scappato in Francia. Io di bolognesi scappati in Francia ne conosco un po', ecco che cosa stanno dicendoci questi? Questi ci stanno dicendo che la storia delle rivoluzioni, la storia della modernità, è essenzialmente la storia di innumerevoli voci che si immaginano un mondo. E poi la realtà cos'è alla fine? La realtà storica cos'altro è se non il punto di intersezione psicodinamica fra innumerevoli derive di immaginazione? Dunque prendiamola così, ma non è tutto qui, perché poi ci sono i sonnambuli, ci sono i pazzi e ci sono i sonnambuli. I sonnambuli sono pazzi, i pazzi talvolta sono sonnambuli, talvolta invece sono fin troppo euforici, ma chi sono i sonnambuli? Ecco, e lì c'è un discorso sul potere. Naturalmente Foucault è il riferimento rivelato fin dall'epigrafe, quindi sappiamo che Foucault è il riferimento principale, ma là, quella idea secondo cui la reazione non è il ritorno del re, non è il ritorno della vecchia aristocrazia, ma è la creazione di un esercito di sonnambuli, cioè di persone che non sono più in grado di esprimere soggettivamente e felicemente e costruttivamente la propria follia, perché sono stati privati della gioia che alla follia inerisce, perché sono stati sottoposti ad una follia che non è la loro, ma è una follia altrui. Ecco allora che capiamo, di follia sempre si tratta, ma c'è una follia felice e costruttiva, la nostra, e c'è una follia che invece viene indotta dal potere, diciamo, che in quel caso è un astutissimo mesmerista, il riferimento al mesmerismo, un'altra sottigliezza assai raffinata, ma benissimo. E i sonnambuli dunque sono, mi viene da ripetere, ripeto me stesso, posso farlo, sono i pendolari della Subway di Londra. Ecco, quando io mi trovo, e mi capita talvolta, nella Subway londinese, ma potrei dire quella milanese, ma quella londinese più di ogni altra, mi rendo conto del fatto che c'è un'umanità, ed è in fondo la grande maggioranza dell'umanità contemporanea, che non è più in grado di conoscere e di elaborare consapevolmente, singolarmente e dunque felicemente la propria follia, perché è diventata schiava di una follia che non è la sua ma che è una follia altrui. Ecco, tutto questo secondo me c'è nell'Armata dei Sonnambuli. Manca un'altra cosa, se io fossi, essendo io soltanto un lettore, non posso pretendere come lettore di rivolgermi ai miei letti, bizzarra questa, ai miei autori, e chiedere loro di fare questo, di fare quello, ma se esistesse questa possibilità, io direi qua adesso bisogna compiere il grande salto, e il grande salto è dare un'occhiata al cinema, all'arte, alla letteratura contemporanea. Non sto qui a farvi la lista, ma la lista ve la potete fare da voi, se seguite. E beh, voi vi rendete conto del fatto che la distopia è diventata l'unico genere frequentabile da chiunque usi il cervello in maniera non pubblicitaria. Ecco, bene. Ora, io sono stanco di me stesso in quanto distopico della prima ora e credo che si tratti di compiere un'operazione che prima di tutto è dell'immaginazione, poi è della teoria, della creazione teorica, ma è soprattutto dell'umore collettivo. Perché l'umore collettivo non è semplicemente una questione d'umore, è una questione che mette in moto le montagne. Bene, ai miei autori chiederei: inventiamoci il prossimo secolo, a parole naturalmente, come possiamo fare, inventiamoci un'immaginazione non distopica del secolo che viene, usciamo da quell'incubo che è stata purtroppo la storia della modernità. Sì, eccoci. Bene, buonasera a tutte e a tutti e grazie a Franco per questo distillato, diciamo, della sua recensione del libro, che ovviamente invito tutti a leggere nella sua interezza. Colgo due aspetti di quello che ha detto Franco nella sua introduzione. Uno riguarda appunto il modo di fare storia attraverso il romanzo storico, il modo di fare ricerca storica attraverso la narrativa, che noi consideriamo essere in fondo uno strumento di indagine. Costruire personaggi e metterli dentro a un ambito storico, a uno scenario storico verosimilmente ricostruito, secondo noi è un modo per interrogare la storia, per fare delle ipotesi, che sono ovviamente ipotesi narrative, non sono ipotesi storiografiche, no? Sono la classica ipotesi da cui parte qualunque narrazione. Che cosa succederebbe se? E però permettono di ottenere risposte che sono interessanti anche dal punto di vista storico. Si scrivono romanzi storici, sostanzialmente, almeno quelli che noi scriviamo, per mettere in crisi la storia monumentale, per mettere in crisi il monumento che ti viene presentato e che viene costruito sopra a un periodo storico che di per sé sarebbe fatto di voci e di vita, e invece tu lo copri con una cosa fatta di marmo e di pietra, no? E con una lingua di pietra che in qualche modo si ripete sempre uguale a se stessa. Tu passi e il monumento è sempre uguale e ti presenta sempre la stessa faccia. Questo è quella che gli inglesi chiamano master fiction, o che i francesi chiamano grand récit. il grande racconto, anche se appunto Récit ha la caratteristica singolare e interessante di essere molto simile a recita in italiano, quindi diciamo è la grande mascherata della storia e del potere, no? La storia ufficiale, insomma, quella piena di stereotipi, la vulgata che tutti noi, se non andiamo ad approfondire ulteriormente quello che ci viene di solito raccontato, ci beviamo e conosciamo, e che è quella da cui anche noi partiamo, quella che anche noi interroghiamo. Noi non siamo storici di professione, non siamo accademici, non abbiamo mai fatto ricerca storica in università o in laboratorio, in istituti di ricerca, quindi partiamo da quello, partiamo dal monumento e cerchiamo di trovare crepe nel monumento, punti dove infilare i nostri attrezzi narrativi per fare crollare il monumento, per farlo cadere in pezzi, oppure cerchiamo di costruire candelotti di dinamite narrativi che si possano piazzare come cariche sotto al monumento per farlo crollare. Questa è forse più il caso dell'Armata dei Sonnambuli. Noi qui abbiamo costruito 5 personaggi che sono tutti personaggi inventati, di invenzione, che non abbiamo trovato negli archivi diversamente da altre volte, che quindi noi abbiamo costruito a partire da elementi che ci sembravano essere interessanti per mandare in pezzi la storia monumentale, la storia ufficiale, la vulgata sulla Rivoluzione Francese e in particolare su quel periodo della Rivoluzione Francese che va dal 21 gennaio 93, il giorno in cui il popolo di Francia taglia la testa al re, al 21 gennaio del 95. Abbiamo costruito 5 personaggi mettendo insieme degli elementi. Ci sentivamo, coglievamo narrativamente che l'elemento del teatro, l'elemento del mesmerismo e della follia, l'elemento della di genere, quindi della partecipazione femminile alla rivoluzione, e la voce del popolo potevano essere gli ingredienti esplosivi che facevano crollare il monumento, anche se non sapevamo chiaramente come sarebbe crollato, che pezzi avrebbe prodotto. Questa è un tipo di esperimento di quelli imprevedibili, non è come quando diciamo innesti una pianta con un'altra e sai quale sarà il risultato di quell'innesto, no? Oppure fai accoppiare una cavalla e un somaro e sai quale sarà il risultato di quell'incrocio, no? Questi sono esperimenti che non sai che cosa produrranno, e proprio per questo la narrativa è uno strumento di ricerca, no? Non soltanto di pianificazione di una trama. Ecco, i frammenti sono quell'elemento schizofrenico, no? di cui parlava Franco, quelle tante voci, quei punti di vista con i quali noi abbiamo cercato di riraccontare la Rivoluzione Francese. L'elemento che secondo me è centrale rispetto al romanzo storico è che una volta che tu hai spaccato il monumento in questo modo, hai prodotto i frammenti, in qualche modo non ti può bastare la pura e semplice frammentazione, perché il rischio è che poi questi frammenti, che sono le storie dei subalterni, sono le storie che sono scritte nei silenzi della master fiction, nei silenzi della storia ufficiale, sono il tuo modo di far parlare le cicatrici della storia, ciò che è stato censurato, ciò che è stato obliato, ciò che non c'è nell'archivio, e tu interroghi questo non esserci per capire come mai non c'è e farlo parlare. Ecco, questi frammenti, se tu poi non trovi una trama che in qualche modo li tenga insieme, senza riportarli ad uno, ma che li tenga insieme, rischiano di essere a loro volta storie subalterne, non soltanto storie dei subalterni, ma storie subalterne rispetto di nuovo alla storia ufficiale, che in qualche modo di nuovo la garantiscono, che in qualche modo di nuovo le lasciano il posto centrale che ha occupato, no? E che si propongono come complementi. Noi siamo dei pezzettini che in qualche modo completano, la rendono un po' più ricca, ma pronti a farci sussumere poi alla fine, no? dal racconto della storia ufficiale e tutto sommato dipendenti dall'esserci di quel racconto. Se tu non riesci a tessere un filo narrativo che in qualche modo li tenga insieme, corri questo rischio. Il romanzo storico è questo, almeno per come lo concepiamo noi, cioè riuscire poi a mettere questi elementi, questi frammenti dentro a una trama che li tiene assieme, ma che non ricostruisce un monumento di nuovo, no? Mettendo, rimpastando la calce e mettendo i frammenti, incollandoli uno con l'altro, ma che ricostruisce qualcosa che è simile alle costruzioni di blocchetti di legno che fanno i bambini, cioè quelle che tu la guardi e sai che è fatta di pezzi e sai che potrai rimontarla come vuoi, che già ti dice: io posso essere smontata, non mi devi considerare, no, un unicum che o mi prendi così oppure niente, no? Io posso essere smontata, gioca con me. Questo è il tipo di costruzione che noi cerchiamo di fare con i frammenti del monumento, no? Quindi non di nuovo ti faccio un monumento più bello di quello che c'era prima e te lo propongo come la verità alternativa, no? Che per certi versi è un po' il modo di fare di alcuni romanzi storici, penso ai romanzi storici alla Dan Brown, no? La verità storica che conoscevi ne nasconde un'altra e io ti propongo quest'altra verità, che è molto consolatorio, no? Ti sostituisce un monumento, ti dice: tutto quello che non sai è vero e adesso ti faccio vedere, no? Che è proprio il fatto che tu non lo sapessi, quasi è la giustificazione del fatto che è vero, proprio perché non te l'avevano raccontato, allora è giusto ed è qua e te lo faccio vedere. L'altra cosa che prendo da quanto ha detto Franco è la questione dei sonnambuli. Appunto nel romanzo c'è questo mesmerista malvagio, diciamo così, che ovviamente però in quanto frammento, in quanto voce, dal suo punto di vista crede di costruire una società migliore. Non è un malvagio per il gusto di esserlo, perché gli piace fare il male, no. Se noi la raccontiamo dal suo punto di vista, lui è l'eroe della sua narrazione tanto quanto gli altri, che attraverso il controllo della mente, forme di proto-ipnosi, diciamo così, vuole costruire un esercito di automi di carne che combattano la rivoluzione, che completino la rivoluzione, che facciano, diciamo, un'ulteriore rivoluzione tale che la rivoluzione si compia. La rivoluzione è un termine che vuol dire, no, il girare di un pianeta intorno al Sole, quindi questo personaggio si rende conto che la reazione deve sempre presentarsi come una rivoluzione, sempre dire: io sono una rivoluzione, no? E d'altra parte noi lo sappiamo bene, in Italia si parlava di rivoluzione fascista, no? E quindi lui, attraverso questo esercito, vuole fare gli altri 180 gradi di rivoluzione, diciamo così, e tornare al punto d'origine, a un punto d'origine molto lontano. Chi sono questi sonnambuli? Molti ce lo chiedono, no? Perché è chiaro che si tratta di un'allegoria. Chi sono? Beh, noi cerchiamo di rispondere senza fare un identikit diretto, perché ovviamente da romanzieri chiudere le proprie allegorie con un'interpretazione a chiave diretta ed immediata fa sì che poi il tuo romanzo non parli più al presente che arriverà domani, no? Che non sia più metastorico. Invece ambisci, nello scrivere un romanzo storico, a che questo possa essere applicabile, cioè traducibile, interpretabile nelle sue allegorie anche nel presente che arriverà tra 10 anni, no? Quindi non è che andiamo mai a dire: sono questi. Però chi sono? Qual è la loro caratteristica fondamentale? La loro caratteristica fondamentale è che costoro intanto sono volontari, cioè non sono gente la cui mente viene condizionata suo malgrado, a sua insaputa. Sono gente che si offre per un esperimento, diciamo, no? Che dice: io sono qui, che rinuncia al proprio desiderio, alla propria capacità di desiderare, alla propria volontà anche, e la mette nelle mani di un altro tizio. Perché lo fa? Lo fa perché quest'altro tizio gli promette che attraverso questa operazione costoro diventeranno invincibili. Il sonnambulismo ai tempi della rivoluzione francese si pensava che potesse produrre, cioè questa sorta di trance indotta, di proto-ipnosi, potesse produrre 3 effetti fondamentali: una minore percezione del dolore. In seguito, poi nell'Ottocento, sono stati fatti esperimenti in cui l'ipnosi veniva usata come forma di anestesia, che sembravano anche funzionare, quindi evidentemente si era capito un elemento, quindi minore percezione del dolore, capacità di prevedere, di premonizione a breve termine, cioè leggera premonizione, riesco a capire per esempio che mossa sta per fare l'avversario che ho di fronte, quindi dove mi colpirà. E dall'altra parte, capacità di muoversi secondo un ordine preciso, in maniera quindi strategicamente perfetta dal punto di vista militare. Queste tre caratteristiche: sento meno dolore, prevedo le mosse dell'avversario, sono perfettamente coordinato ai miei compagni, perché in sostanza in 50 o in 100 che siamo è come se avessimo un unico cervello, ne fa chiaramente un esercito invincibile. E costoro, sedotti diciamo dalla possibilità di vincere, abdicano alla loro volontà e al loro desiderio e dicono: dici tu che cosa dobbiamo fare, no? Ci va bene che tu ci guidi, che ci dici che cosa dobbiamo fare. Ecco, siccome questa è una condizione di molti sonnambuli, troviamo il magnetista che ci dica che cosa dobbiamo fare e che se noi lo facciamo vinceremo. Questa è una condizione insomma piuttosto diffusa anche nell'oggi del nostro paese, ma non solo. Troviamo, no, quella mente che ci guida e rispetto alla quale noi facciamo un passo indietro di volontà, di desiderio, perché ci promette che vinceremo. Ecco, questi sono per noi i sonnambuli oggi e probabilmente continueranno ad esserci anche domani. Franco ricordava che in esergo a questo libro c'è una citazione di Foucault, ce n'è anche una da Gracco Babeuf, per la verità, insomma due francesi ci volevano ovviamente, e in realtà ce ne poteva stare anche una terza, forse al posto addirittura di queste due, di Slavoj Žižek, che a proposito di proprio di Robespierre, in un suo libro In difesa delle cause perse, se non ricordo male, dice una cosa secondo me interessante e che ci ronzava, ecco, nelle orecchie mentre scrivevamo questo romanzo. Lui dice: il problema dei rivoluzionari che ci hanno preceduti non è il fatto che siano stati troppo estremi, che di solito è l'accusa, no, che viene mossa, no, i terroristi, no, è un termine che nasce allora, appunto, i fautori del terrore. Non è il problema di quante teste hanno tagliato, ecco, ma di non essere stati abbastanza radicali, cioè di non essere andati davvero alla radice, di non avere rivoluzionato fino in fondo anche se stessi, cioè di non avere agito davvero anche su di sé, anche su non avere messo in discussione in qualche modo, comunque appunto passato sotto il rasoio della critica anche i fondamenti di quello che pensavano e che facevano. E questo poi segna e ha segnato molto spesso il rallentamento, il blocco di certi fenomeni e movimenti rivoluzionari. Probabilmente non poteva che andare così, ovviamente non stiamo qui a pensare, ecco, appunto, che la storia abbia una direzione, come diceva Franco, però è interessante, per noi era interessante indagare questi limiti, indagare queste contraddizioni. Negli anni immediatamente precedenti alla rivoluzione, appunto in Francia c'è questa grande moda, arriva questo guru tedesco, Franz Anton Mesmer, con questa teoria, quella del magnetismo animale, una sorta di teoria proto New Age, diremmo così, l'idea che esiste un grande flusso, un grande fluido che collega tutti gli esseri viventi e che tutti i mali della società e dell'uomo derivano dall'interruzione di questo flusso e che attraverso determinate terapie e tecniche è possibile ripristinarlo, e quindi lui fonda la società dell'armonia universale, no? Questa utopia aconflittuale, eccetera. Poi cozza contro una delle obiezioni che uno dei personaggi del romanzo, noi in realtà l'abbiamo messa in bocca proprio al guru medesimo, ecco, in un gioco, se volete, di contrappasso, fa, e cioè: ma insomma, avete mai visto un contadino ipnotizzare, magnetizzare un aristocratico? O una donna ipnotizzare, magnetizzare un uomo? Molto probabilmente, insomma, la risposta è no, perlomeno lo era a quell'epoca, e questo segna già il passo, segna già appunto una serie di contraddizioni che quell'evento, quel grande evento si trovò a vivere e che a noi consideriamo fertili, interessanti per la nostra trama, per quello che volevamo raccontare. Perché appunto in realtà l'armonia universale è un'idea, appunto è un'idea tutto sommato reazionaria, perché è l'idea appunto che si possa fare la rivoluzione senza conflitto. C'è uno dei personaggi, un magnetista, uno di quelli buoni tra l'altro, che dice proprio questo: io ho fatto la rivoluzione senza la ghigliottina. Non si può fare la rivoluzione senza la ghigliottina, evidentemente. Ovvero non si può fare la rivoluzione senza il conflitto, senza appunto la contraddizione, senza farci i conti. Eppure molto spesso appunto i rivoluzionari che ci si presentano come tali e che in realtà non lo sono, ci parlano di questo ancora oggi, della possibilità appunto non solo appunto di affidargli in qualche modo la nostra volontà e il nostro desiderio, ma anche appunto che sarà tutto soft, sarà tutto lineare, che basterà poco fondamentalmente, che non bisogna sbattersi più di tanto. E allora noi abbiamo scelto dei personaggi che invece appunto precipitassero dentro queste contraddizioni, dentro questi nodi irrisolti, volutamente, non perché ci interessasse dare un'idea complessiva della Rivoluzione francese, giusto secondo me il punto che centrava Franco all'inizio, tant'è vero che abbiamo scelto solo i due anni centrali, non abbiamo raccontato, no, il sorgere, l'insorgenza rivoluzionaria, la presa della Bastiglia, no, il 14 luglio, eccetera, e nemmeno la parte finale, non abbiamo raccontato il direttorio, Bonaparte, eccetera, eccetera, soltanto la parte centrale, il terrore e il Termidoro, il giro di boa, diciamo, che poi è tutto terrore, anche il Termidoro, solo che semplicemente la mannaia ce l'avevano quegli altri, ma addirittura ne hanno decapitati di più durante il Terrore Bianco che durante il Terrore Rosso, però anche qui insomma la storiografia poi la fanno quelli che vincono. E allora i personaggi che abbiamo scelto per entrare in questo evento, per raccontare queste contraddizioni, sono appunto ovviamente non sono scelti a caso. Uno è un attore, questo sgarrupatissimo attore bolognese, scappato a Parigi, perseguitato in qualche modo dalla giustizia, ma anche sulle orme del suo mentore, del suo insomma, ispiratore, che era Goldoni, e a lui insomma, compie un'operazione strana, quasi di contrappasso. Lui riporta in strada il teatro, ecco, canonizzato da Goldoni, lui lo riporta in qualche modo, pur essendo un grande ammiratore di Goldoni, lo riporta in strada guidato da un'intuizione. Il fatto che senso ha rimanere a recitare dentro quattro mura quando fuori c'è la rivoluzione, cioè quando il palcoscenico può essere la rivoluzione stessa, questo divenire. Ed è questo che, ed è quello che lo muove fondamentalmente, non è mosso da chissà quali istanze sociali o ideologiche, potremmo dire quasi che è mosso prevalentemente dal narcisismo attoriale. È un attore fallito che ritrova il successo, e come lo trova? Inventandosi un modo di rappresentare diverso dai deputati della convenzione. Lui ragiona proprio sul doppio senso, il doppio significato, la doppia accezione del termine rappresentare, no? Non farsi portavoce di un'istanza collettiva o mettere in scena. Lui fa questo, lui si inventa una maschera, un eroe popolare, ovvero la prende in prestito dalla commedia dell'arte, la maschera col nasone, la maschera di Scaramouche, e compie la vendetta che il popolo vorrebbe compiere, la vendetta contro quelli che imboscavano le derrate alimentari, i monopolatori, contro i monarchici, le prime gang, diciamo, di monarchici che cominciano a fare capolino appunto a ridosso del Termidoro, e appunto è una maschera di supereroe, ecco, popolare che combatte l'armata dei sonnambuli. e abbiamo cercato di mettere in questo personaggio tutto il carico di ambiguità che, insomma, evidentemente, capite, può avere, perché è chiaro che si tratta di un singolo, comunque, di un singolo che anche in questo caso si fa carico di un'istanza collettiva, ma è lui che è unico interprete, appunto, da solo, il vendicatore solitario. E il fatto che ci stia simpatico, perché personalmente, insomma, mi sta simpatico questo cialtrone che poi riesce ad avere un grande successo, tutto sommato, insomma, dal mio punto di vista, ecco, è anche una cosa inquietante, interessante, insomma, quanto davvero ci potremmo sentire rappresentati da un personaggio che agisse in questo modo. Sarebbe sano, non lo so. Dall'altra, bisogna tenere conto che tutta la rivoluzione è un grande palcoscenico anche in senso letterale. Al centro della rivoluzione c'è la ghigliottina, quella che ho sulla maglietta, che è una prima donna. L'unico momento, infatti, in cui la strategia del folk hero viene messa in crisi è quando questa prima donna fa il suo ingresso. Si saliva su un palco per andare alla ghigliottina. E c'era tutto il pubblico, si andavano a vedere, no? le decapitazioni, un po' più distante, si andavano a vedere le decapitazioni, e siccome a un certo punto poteva capitare da un momento all'altro a chiunque di essere acchiappato e portato in fretta e furia, ecco, c'era un tribunale rivoluzionario molto intasato e quindi andavano abbastanza per le spicce, ci si preparava alla frase da dire. Tutti avevano le ultime parole famose e c'era, come dire, una valutazione dal basso, popolare. Chi era morto dicendo la cosa più ad effetto, la cosa migliore, ecco. Chi non c'era riuscito, chi aveva detto una cazzata, è morto bene, è morto male. Ecco, di tutte ce ne sono state tramandate diverse. Una delle più interessanti, la riportiamo anche nel romanzo, secondo me la pronunciò Carrà, un girondino, durante il colpo di stato, il putsch, diciamo, dei giacobini. I girondini vengono liquidati e mentre lui sale alla ghigliottina dice: peccato, volevo vedere come andava a finire. Uno spettacolo, volevo vedere come andava a finire. Quindi c'è assolutamente la centralità di questo elemento della rappresentazione, della messa in scena della rivoluzione. Non è una cosa, come dire, che ci siamo inventati. Ancora, l'elemento femminile, il conflitto di genere, la contraddizione di genere, ha segnato profondamente le vicende della Rivoluzione francese e tutta la contemporaneità che getta ovviamente le sue radici lì. La contemporaneità politica, intendo dire. Pochi sanno, perlomeno noi da ignoranti, ecco, non sapevamo che venne scritta anche una dichiarazione della donna e della cittadina, che facesse il controcanto alla più celebre dichiarazione dell'uomo e del cittadino, che però rimase lettera morta. E le donne ebbero un ruolo fondamentale, non solo in alcuni eventi che magari sì, quelli li troviamo anche nelle lezioni scolastiche, la famosa marcia su Versailles per riportare la famiglia reale in città, eccetera. No, nella quotidianità spicciola della rivoluzione, nelle assemblee di quartiere, nelle assemblee della convenzione, dove ovviamente non potevano sedere, non potevano essere elette o votare, ma potevano assistere, partecipare, anche esercitare una certa pressione psicologica. E appunto a un certo punto però questa grande partecipazione venne bloccata d'imperio dal potere maschile e non dal Termidoro. Questo è l'elemento contraddittorio e interessante dal nostro punto di vista, nel quale siamo voluti entrare a gamba tesa, non dal Termidoro, non da quella che, come dire, potremmo considerare la prima grande svolta controrivoluzionaria, bensì proprio dai giacobini, che va detto, insomma, promulgarono una delle legislazioni più avanzate in termini di tutela della donna. Della donna come vedova, come madre, come vittima delle percosse maschili, eccetera, eccetera, una delle più avanzate sicuramente per quei tempi, ma si rifiutarono a un certo punto di invece dare risposta alle richieste di partecipazione, no? di soggettività, del riconoscimento della soggettività politica delle donne. Chiusero d'imperio i club femminili, i club politici femminili che erano nati negli anni dello scoppio rivoluzionario. Insomma, anche questo per noi è stato un elemento molto interessante da indagare. Infine, il magnetismo e la follia. Dicevo prima, appunto, quando ci siamo imbattuti nel fenomeno del magnetismo, del mesmerismo, lo abbiamo fatto tramite il racconto che ne fa uno studioso americano che si chiama Robert Darnton, il quale ha una tesi sul Settecento abbastanza originale. Dice: il Settecento è un secolo strano, difficilmente inquadrabile. Dire che il secolo dei lumi è un po' riduttivo, ecco. E quindi lui è uno che si è impegnato a indagare tanti altri fenomeni sottocorrenti, eccetera, insomma, a restituirci un'immagine del Settecento diversa. Uno di questi studi è proprio su Mesmer e l'impatto che ebbe sulla cultura europea e francese in particolare negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione. Le teorie di Mesmer aprirono in qualche modo lo spettro delle possibilità, diciamo così. Innanzitutto il fatto che fossero così contrastate dalla scienza ufficiale, ci fu una commissione reale che, insomma, stabilì che erano più o meno tutte ciarlatanerie, era tutta autosuggestione, ecco, fece sì che molti degli scontenti, ecco, di quello che era lo stato della scienza nell'Ancien Régime o delle istituzioni scientifiche dell'Ancien Régime invece confluissero e attraversassero il magnetismo e il mesmerismo. Posso fare alcuni nomi: Lafayette, Marat, Brissot, insomma, non lo stesso Carrà che citavo prima, ebbero a che fare con il magnetismo animale, con la società dell'armonia universale, e quindi fu assolutamente un fenomeno trasversale, poi, come dire, magari anche rinnegato successivamente, ma che ebbe un ruolo nel creare un certo humus, e in effetti subito se ne produssero due versioni che hanno un risvolto politico immediatamente percepibile, e cioè l'idea che queste pratiche magnetiche fossero appannaggio di singoli individui carismatici, quindi che dipendesse fondamentalmente dalla capacità, dal carisma, dalla volontà di un singolo uomo, come dire, capace, ecco, che avesse in qualche modo delle particolari capacità, oppure che invece queste tecniche potessero essere acquisite da chiunque, che quindi gli esseri umani potessero in qualche modo autocurarsi, ecco, che la società, ecco, in qualche modo potesse autocurarsi. Il magnetismo democratico, potremmo definirlo così, o il magnetismo elitario, ecco, oligarchico, che queste due versioni che immediatamente si produssero, perché la società dell'armonia universale si spaccò, suggerisce Darnton, sono già in qualche modo, già accennano in qualche modo a due visioni, no, che poi si daranno battaglia dentro la rivoluzione. E allora, ecco, noi ci siamo immaginati un giacobino mesmerista, ecco, uno che prova testardamente a conciliare l'idea di un magnetismo al popolo e la possibilità, appunto, di tenere questo dentro il flusso rivoluzionario. E posso dire, senza fare spoiler, che è evidente qual è il problema col quale si troverà ad avere a che fare, quello che diceva Franco, il potere, semplicemente, il fatto che comunque un terapeuta che si propone di terapizzare qualcuno anche a fin di bene esercita un potere. E questo è chiarissimo, ad esempio, una delle ambientazioni che abbiamo scelto, che è il manicomio di Parigi, Bicêtre, una specie di piccolo microcosmo nel quale, appunto, venne tentato forse uno dei più grandi esperimenti, uno dei più avanzati, questo sì, frutto assolutamente della cultura illuminista, da Pinel e Poussin, Philippe Pinel e Jean-Baptiste Poussin. Vennero slegati i matti per la prima volta, invece che tenerli chiusi nelle gabbie, incatenati, testò questo trattamento morale, che sostanzialmente significava parlarci, averci a che fare, considerarli persone, ecco, e provare a guarirli. Però questo, appunto, significava anche, come ci ha spiegato bene Foucault, esercitare un potere diverso, non più quello delle catene, no? Diverso. E quindi c'è comunque la necessità di fare i conti con questo, con l'esercizio di un potere per la liberazione, con tutto il carico di contraddizioni, ancora una volta, che questo comporta. Mi fermo qui, la facciamo troppo lunga, se no. Allora, innanzitutto volevo dire che, a parte ringraziare, ora magari partiamo gli interventi, volevo dire che ovviamente tutta questa situazione è completamente autofinanziata e quindi magari ora passa Nicolo Pietro con la cassettina, che se diamo un piccolo contributo l'uno verrà molto più facile organizzarne altre. Successivamente alla presentazione facciamo anche un aperitivo che appunto serve semplicemente a poter fare altre iniziative come queste. Io direi, anche per, come dire, non portarla troppo oltre, che se facciamo un unico giro in cui raccogliamo tutti gli interventi, così poi facciamo solamente un giro finale. Chiunque volesse intervenire può dirlo a me. Parto io con delle considerazioni che mi sono venute non mentre leggevo il libro, ma dopo aver finito il libro, mentre per rilassare, come defaticamento, cioè, mi leggevo Agamben, dopo essermi divertito un sacco con Scaramouche e roba varia, volevo punirmi un pochino, però appunto, preso dal libro, leggevo Agamben, ma mi risuonavano ancora tutta una serie di cose. E c'è questa storiella della tradizione cassidica che racconta all'inizio, che dice appunto Baal Skem, il fondatore del cassidismo, quando aveva un problema si recava in un certo punto nel bosco, accendeva un fuoco, diceva una preghiera e il suo problema veniva risolto. La generazione successiva, il suo discepolo, il suo erede, andò nel bosco, accese il fuoco, ma scordò la preghiera, ma il problema venne risolto comunque. La generazione successiva, appunto, andò nel bosco, non sapeva accendere il fuoco, la preghiera, quello di prima, non gliel'aveva insegnata, però anche lì il problema si risolse. La generazione successiva ancora non si ricordava dove fosse il bosco, quindi restò a casa sua sulla poltrona, non sapeva dire la preghiera, non sapeva accendere il fuoco, e però disse: di tutto ciò possiamo raccontare la storia, e il problema si risolse comunque. Appunto, il fuoco e il racconto è il titolo di Agamben, e questo mi faceva pensare a tre questioni poste nel libro e poste a margine nelle cose scritte in preparazione, nella fase preparatoria alla scrittura del libro. Appunto, il fuoco e il racconto, cioè basta il racconto per fare tutto quello che avrebbe fatto il fuoco? E lì c'era un saggio breve scritto da Giovanni per una conferenza, in cui appunto cosa distingue la rivoluzione da ciò che non è una rivoluzione, e soprattutto cosa assomiglia, in cosa sono i comuni narrazione e rivoluzione, il fuoco e il racconto. C'hanno molte similitudini, appunto il racconto e l'evocare il fuoco ha degli effetti. Di contro, però, appunto, se basta raccontare la storia dalla poltrona di casa propria, perché prendersi la briga ad andarsene fino nel bosco ad accendere il fuoco? Se basta la suggestione, perché allora andarci fino in fondo? Se basta la rivoluzione con il click della tastiera, perché andarsi a fare pure il corto della manifestazione? Per cui, appunto, fuoco e racconto si assomigliano molto, però evidentemente non sono del tutto la stessa storia. La terza cosa, che era una cosa che mi veniva in mente, che era una cosa che a cui già in parte accennato, era a un certo punto Agamben dice la storia, intesa in senso narrativo, ma intesa anche in senso storiografico, e quindi il racconto di quel fuoco in realtà è ciò che spegne quel fuoco. La storia è ciò che spegne quel mistero. Quando c'è una storia unica di quel mistero, il mistero si è spento. A me sembra che in questo gioco tra storia e mistero ci sia innanzitutto il vostro puro divertimento nello scrivere il libro. Cioè, a me è sembrato che sia in assoluto il libro in cui a un certo punto vi siete detti: cazzo, divertiamoci. Cioè, E appunto, in questo ci sono delle porti, in questo momento mi riferisco semplicemente al genere, ci sono delle parti in cui uscite dal vostro canone tradizionale del romanzo storico e, come dire, fate la parte da paura, la parte mystery, cioè che è la parte in cui appunto quello che dice Stephen King, la parte che non solo ti fa lasciare la pentola accesa sul fuoco, ma anche la notte non ti fa dormire perché pensi che ci sia il mostro sotto il letto. E poi questo gioco che fate tra storia e mistero, e appunto, cioè voi evocate e usate il romanzo storico non per vedere come andò, ma come era possibile che andasse e come è sempre possibile che vada. E questo è, del resto del libro di Dan Brown non ricordo assolutamente nulla, però, però devo dire che ho apprezzato molto il anche, come dire, l'operazione di il flusso che continuava anche dopo il libro. E ragazzi, facciamolo ora un giro di intervento in modo da non tirarcela poi fino alle 9 e farla finire per sfinimento quando rimangono solo lei che è venuta già dalle 4 per la prima fila. Giusta mozione d'ordine. Sì. A Catania abbiamo fatto 3 ore. No, anche perché io non tirerei dopo le 8:30, anche per non dare troppo fastidio alle persone che magari cenano. Giuseppe, tu? L'avete alzata in contemporanea? Facciamo tu che sei più vicina. Devo prendere il microfono, ve lo dico, soltanto siamo vicini. Sì, forse stiamo registrando in assoluto comunque con... Avendo il microfono, dovevo solo. Allora... In alcuni passaggi ho avuto la sensazione che vi fosse, io parlo, volo molto più basso, ecco, ho avuto la sensazione che talvolta voi aveste paura di eccedere con la storia, nel senso che... Ma perché voglio, non voglio alzarmi, vi prego. Nel senso che talvolta l'elemento storico era talmente tanto preponderante, talmente tanto forte, che c'erano dei passaggi in cui diventava invasivo. Come siete riusciti ad evitare questi rischi? Cioè questo elemento storico che diventava forte. E poi ancora, fisicamente, o meglio, concretamente, le voci che si alternano, sono 5. Come avete realizzato le parti? Nel senso, ciascuno di voi ha preso un personaggio e lo ha gestito poi giocando di interscambio con gli altri, o avete scritto per sezioni storiche? Devo venire là? Dietro la cassa. Proprio a guardarli tutti. E arriva il compagno Larsen che... Attenzione al bicchiere. Ok. Siamo riusciti a togliere la luce. E ho capito il fuoco, la narrazione. Spegniamo la luce. No, intanto vorrei partire da una cosa che secondo me nei dibattiti si fa poche volte. Cioè, vi vorrei fare i complimenti perché a me il libro è piaciuto veramente tanto. E poche volte mi capita di fermarmi e rimanere folgorato, come quando, non vorrei spoilerare, però in un passaggio un personaggio che prova... Come? Fa una cosa e nel fare questa cosa dice, perché altrimenti poi ci si ritrova a rimpiangere gli anni 80, quando si stava meglio ed era tutto più semplice. E lì resti veramente folgorato perché i numerosi piani si raccolgono tutti in un punto e resti qualche secondo a pensare. Detto questo, vorrei farvi una domanda che magari vi sembrerà surreale, però se uno non fa una domanda all'autore del libro quando ce l'ha davanti, perché va alla presentazione? Ed è una domanda che incrocia un po' quello che avete detto voi e quello che era stato detto prima. Prima si è parlato di egemonia dell'orizzonte distopico nella contemporaneità, e nella contemporaneità che si allunga anche un po' all'indietro ormai da qualche decennio, e su questo sono abbastanza d'accordo. Soprattutto sull'affermazione che un immaginario distopico si presta per quegli scrittori che non vogliono essere soltanto pubblicitari o qualcosa del genere, ricordo. Però, lo metto più lontano, sennò vi buco le orecchie. Un altro degli immaginari che secondo me contraddistingue la contemporaneità nella narrativa e non solo, per varie ragioni, e che a differenza del distopico, molto più del distopico, ha molte sfumature che vanno dall'uso del cervello al pubblicitario, al biecamente pubblicitario, e l'immaginario fantasy, che in questo momento attraversa il cinema, la letteratura, il gioco di ruolo ormai da qualche decennio e tutte le narrazioni crossmediali da cui siamo circondati. È inutile entrare nel merito dei rapporti tra fantasy e distopia, se no non ce ne usciamo più, però perché chiedo a voi del fantasy? Perché prima di leggere questo vostro ultimo libro mi sono trovato a riflettere a lungo sulla funzione culturale che un ciclo fantasy parecchio serio, come Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, sta avendo almeno per la società occidentale e per la cultura media dei lettori delle società occidentali. Lasciamo stare la serie televisiva, che è un altro aspetto. Qual è, a mio avviso, la chiave narrativa, quindi interna ai meccanismi di organizzazione della scrittura delle cronache del ghiaccio e del fuoco? La parcellizzazione e la frammentazione del punto di vista tipico fantasy sulla narrazione nei mille punti di vista che si contraddistinguono in singoli capitoli il cui unico titolo è il nome del personaggio su cui si focalizza quella micronarrazione. Caso vuole che si dica il buon Martin, ormai in età avanzata e con condizioni fisiche non più tra le migliori, si dice probabilmente non finirà mai questa serie, e una delle ragioni che mi sono dato è che il romanzo postmoderno storico che arriva a Martin, il quale poi lo traspone in un'ottica fantasy, ma certo non lo si può accusare di essere uno dei più sprovveduti ultimi arrivati scrittori di fantasy, nella strutturazione che Martin dà, cioè l'iperfetazione dei punti di vista sulla storia di un continente ben preciso che è quello immaginato fantasy, non si sintetizza più. Cioè Martin non riesce più materialmente a chiudere, perché se ogni singolo evento viene tagliato di traverso dall'inserimento nel volume successivo di un nuovo punto di vista, io arrivato a un certo punto alla sintesi, come la trovo? Questo è il fantasy, che tanto fantasy non è, e il successo enorme di pubblico di Martin lo dimostra. Volevo sapere se in qualche modo la lettura di Martin può avervi influenzato, se lo ritenete un modello per lo sviluppo narrativo nella scrittura che i vostri romanzi hanno avuto. Lo si diceva prima, quest'ultimo libro non è Q, non è Altai, anche e soprattutto per questo, per come è scritto e per come affronta i punti di vista, e qualora non lo fosse, che idea ne avete? Punto. Grazie. Altri? Ci facciamo battere la Catania, cioè... No, vabbè. Portiamola alle 4 ore e mezza. Tanto rispondiamo a queste, dai. Ma poi appunto magari suddividendocele, nel senso, sulla questione del basta al racconto, della narrazione della vita, della storia, il fuoco e il mistero. Storiografia, diciamo, è un termine che contiene un ossimoro. Lo dice Desserteaux in un suo libro, dice in fondo contiene storia e scrittura, storia e discorso, e quindi appunto la vita e le parole, cioè qualcosa che non riesce mai a coincidere, no? Tra i due c'è sempre uno iato, c'è sempre uno spazio, e in qualche modo sono contraddittori, perché le parole non riescono mai ad ottenere una mimesi perfetta della vita, no? a riprodurla. Dall'altra parte, quindi, in qualche modo la storia, la vita può dire alla scrittura e alla parola: tu non riesci mai a catturarmi. E dall'altra parte la parola può dire alla storia: tu senza di me non succedi. Cioè se non c'è qualcuno che poi racconta e che dice questo è successo, di fatto è come se non fosse successo, no? E questa, diciamo, è una contraddizione nella quale il romanzo storico si muove ancora di più, no? Ancora a maggior ragione, perché in qualche modo il romanzo storico può anche fare a meno dei documenti, può inventare, può inserire la finzione narrativa. Tu non so se consapevolmente, mentre facevi la domanda, a un certo punto hai praticamente citato Aristotele, la poetica. Aristotele diceva proprio quello che hai detto. Lui parlava dello storico e del poeta. Diceva: il poeta è superiore allo storico, perché lo storico ti dice come sono andate le cose come sono successe. Poi chiaramente una concezione di storia, quella di Aristotele, però insomma in qualche modo ti fa la cronaca di ciò che è accaduto. Mentre il poeta, cioè il narratore, ti dice come sarebbe potuto accadere, cosa sarebbe potuto accadere, che è qualcosa di molto più complicato, no? E che in qualche modo fa somigliare la narrazione a una sovversione, perché di fatto la narrazione nasce sempre da un inciampo, da una rottura della norma. Se io ti racconto qualcosa in cui tutto va come deve andare, tutto va normativamente, tu mi chiedi, ma perché me lo racconti? Sono andato al ristorante, ho ordinato la pasta, il cameriere me l'ha portata, l'ho mangiata. Che storia è questa qua? Perché me la racconti? Se ti racconto una storia è perché c'è un inciampo, una rottura della norma, no? un appiglio rispetto al quale posso trasformare l'indicativo in congiuntivo e dire che cosa succederebbe se io invece andassi al ristorante e chiedessi un piatto di chiodi? Questo, diciamo, è quello che fa il romanzo e la narrazione. Chiaramente il romanzo storico lo fa con la storia, cioè con ciò che poi è accaduto, e ci mette dentro il che cosa sarebbe potuto accadere. Questo, diciamo, no, il gioco che lo rende interessante e che fa sì che appunto in un romanzo storico, secondo me, tu non dici al lettore ti racconto quello che è successo o ti racconto ciò che è vero e non ti hanno mai raccontato, ma la funzione del romanzo storico è falsificare la narrazione dominante, non verificarne un'altra. Rispetto alla questione se poi però appunto il racconto ci esime dall'accendere il fuoco, però non la porrei in termini alternativi, cioè o la narrazione o il fuoco, no? Cioè mi viene da dire che se di quel gesto si fosse mantenuta diciamo una narrazione anche più precisa, probabilmente si sarebbe continuato ad accendere il fuoco, no? Quindi diciamo che dal mio punto di vista la narrazione serve proprio a proprio questa funzione, quella di tenere insieme una comunità che poi in virtù del fatto che ha raccontato delle storie, si è raccontata delle storie, ha dato senso attraverso la narrazione al proprio stare insieme, poi agisce, poi fa, no? E poi porta un'azione nel mondo, cioè che in qualche modo dalla narrazione impara a immaginare un mondo, come dicevi proprio all'inizio, no? E a creare un mondo, e quello è il prerequisito per cambiarlo. Ed è anche quello in fondo che dice Franco quando dice no, interrompiamo questa continua narrazione distopica e cominciamo a provare a raccontare il secolo che viene. Cominciamo a raccontarlo perché raccontarlo è il prerequisito poi per costruirlo, no? Se non lo immagini nemmeno, non puoi nemmeno realizzarlo. L'altra cosa sulla quale rispondo più diretta, diciamo, è la domanda sulla tecnica di scrittura dei vari frammenti. Non ci siamo suddivisi diversi frammenti, è una cosa che non facciamo mai, non ci dividiamo mai i personaggi. Abbiamo già scritto romanzi con una molteplicità di voci, per esempio 54, no? In questo in parte rispondo anche alla domanda su Martin, forse in realtà quello che ci ha influenzato di più è una certa letteratura d'avventura sudamericana, penso a Paco Ignacio Taibo II, per esempio, che molto spesso usa queste tecniche, però non ci dividiamo mai i personaggi, non giochiamo a Dungeons and Dragons mentre scriviamo, diciamo, e nemmeno per sezioni, cioè il nostro metodo è ricerca insieme, condivisione dei risultati della ricerca, sviluppo della trama, almeno di una parte consistente della trama, proprio perché la narrazione è ricerca e quindi non sai fino in fondo che cosa troverai, che cosa produrrà l'esplosione di cui parlavo prima, e poi scalettatura minuziosa dei singoli capitoli, e poi il singolo capitolo, cercando proprio di non far sì che uno di noi si affezioni a un personaggio, viene affidato a uno di noi, quindi uno di noi scrive il capitolo X in cui il protagonista è Dan Blanc, un altro scrive il capitolo Y in cui il protagonista è un altro personaggio, poi li si legge collettivamente, si fanno delle osservazioni, quasi sempre quelle osservazioni producono correzioni da fare al capitolo che non possono essere fatte seduta stante, quindi un altro di noi si prende il compito di riscrivere il capitolo, un altro, non quello che l'ha scritto nella prima stesura, e di aggiustarlo nella direzione in cui si è discusso, quindi in qualche modo di fare una specie di verbale della riunione in forma di capitolo che tenga conto di tutte le osservazioni, di tutte le cose che sono state dette e che non corrisponda alla sua idea di come doveva essere quel capitolo, ma a quello che si è discusso insieme, e così via. È una specie di giostra in cui questi capitoli continuamente passano di mano e cambiano stesura, finché in questo caso, come un frullatore invece, non si produce un'amalgama che poi permette di leggere intere parti del libro dall'inizio alla fine, di cambiare ulteriormente, di fare modifiche più minuziose fino alla stesura finale. Ma posso no, era rimasta, se non ricordo male, la domanda. Come evitare l'eccesso di storia, e c'è quella su Martin. Ah, come evitare l'eccesso di storia? Non lo so, ci viene spontaneo, nel senso che scegliamo sempre delle angolazioni strane. Fondamentalmente, cioè, quando l'evento è davvero di quelli con la E maiuscola, no? Svicoliamo o lo guardiamo da un pertugio. Dicevo prima, può sembrare strano, ad esempio, scrivere un romanzo sulla Rivoluzione Francese e non raccontare, che so, la presa della Bastiglia, per esempio, no? O Campo di Marte. Sono eventi effettivamente fondativi. Tra l'altro, i personaggi dell'Armata dei Sonnambuli li hanno vissuti, la marcia delle donne su Versailles, eccetera, e li citano, ne accennano, però non te li faccio vedere. Cioè, è come se io ti stessi dicendo, ma questo è da manuale scolastico, ok? Io voglio andare più in profondità, e magari ti racconto un episodio che non è così importante, non fa parte della grande storia, però secondo me è più significativo. Ad esempio la rissa tra le Amazzoni e le pesciaiole, pescivendole delle Hall, che può sembrare folklore, può sembrare un momento di colore, no? Ma invece è fondamentale per capire una cosa, cioè come il potere maschile rappresentò e raccontò, no, la partecipazione femminile alla rivoluzione. Ovviamente è stato il potere maschile a tramandarci il racconto, no, di questa colossale rissa, molto coreografica anche da raccontare, divertente da raccontare, perché sì, in certi casi ci volevamo proprio divertire, e però è fondamentale perché lì capisci che c'è un confine, che c'è un conflitto, una contraddizione interna, no, tra, diciamo, donne che approcciavano la rivoluzione, vivevano la rivoluzione in un certo modo, e altre magari di estrazione sociale diversa che l'approcciavano in un altro modo. Lì si verifica questa grande rissa che sembra il villaggio di Asterix, no, coi pesci proprio boom, e questo episodio colpì tantissimo l'immaginario, al punto che divenne il pretesto per chiudere i club politici femminili, no? Ecco, preferisco raccontarti questo perché secondo me, no, mi dice qualcosa. La domanda su Martin voglio solo chiosare, perché in realtà io penso che la domanda non abbia una risposta, a parte il fatto che non è stato tra le nostre fonti, ecco, diciamo, questo l'ha già detto Giovanni. Credo però che sia azzeccatissima la riflessione sul fatto che lì, appunto, come dire, il punto di vista postmoderno, parcellizzato e frantumato, arriva quasi al parossismo, al suo grado massimo. E personalmente credo che questo rappresenti un problema nell'ottica del ma come si va oltre, cioè come si può ripensare una narrazione fondativa. E innanzitutto forse bisognerebbe non avere paura di farlo. Perché, a parte che Martin, non so, non è messo così male, è molto grasso, però ha 65 anni, non è vecchissimo, ecco. Sì, forse non si è trattato bene nella vita, però credo che abbia ancora un'aspettativa di vita, almeno lui sostiene di averla, e quindi chissà se la finirà, forse sì, la sua saga. Però credo che il problema, tra virgolette, se vuoi, forse lui non lo viva certo come tale, però della sua narrazione, che sicuramente non è una narrazione da inesperto, anzi, Beh, è forse proprio questo, cioè il fatto di rifuggire qualunque sintesi, appunto, qualunque tentativo alla fine di rifondare, passami il termine, un'idea di bene e male, ok? Per capirci, mettici tutte le virgolette che vuoi, no? Che diavolo possa significare restare umani in quel contesto lì, no? In un contesto che è quello di una guerra di tutti contro tutti e di tutti i punti di vista contro tutti i punti di vista, che facilmente porta o all'irrisolutezza o appunto fondamentalmente a un individualismo assoluto. In un certo senso il fantasy di Martin porta alle estreme conseguenze un percorso che probabilmente è avvenuto dentro quel genere, un genere che ha sostituito la fantascienza, per esempio, perché è finita l'idea di futuro. Franco ci ha scritto un libro su questo, è finita l'idea di futuro e quindi meglio un mondo, come dire, parallelo che un mondo futuribile, e però il mondo parallelo che tu mi racconti, che cos'è? È un mondo appunto in cui c'è una guerra di tutti contro tutti, alla fine è un mondo assolutamente caotico in cui è quasi impossibile ritrovare il bandolo della matassa. Io credo che una narrazione del genere sia problematica, ecco. Noi non siamo certo quelli che scrivono i romanzi a tesi, dicevamo, i romanzi che hanno la pretesa di, no, mettere la parola definitiva, no, alla storia o farne qualcosa di edificante, ci mancherebbe altro. Però, come diceva Giovanni all'inizio, cerchiamo comunque di ricostruire un bandolo, di ricostruire un filo, che è sicuramente uno dei tanti possibili. Non pretendiamo, non abbiamo una verità rivelata da imporre, no, in maniera zdanoviana o ratzingeriana, ci mancherebbe. Però comunque c'è la possibilità di orientarsi. Secondo noi sì, ecco, c'è la possibilità di muoversi, ecco, lì dentro, di cogliere qualcosa di quel divenire, no? Di cogliere una scheggia o un frammento di verità, diciamola così. La letteratura, la poesia possono servire a questo, possono servire anche a questo. Un tempo erano forse l'unico strumento per farlo, poi è nata la filosofia a un certo punto in Grecia e hanno deciso che la poesia era il regno della soggettività, no? Era roba, no? Che serviva ad altro, ok? Poteva anche essere grandissima, ma che serviva ad altro? La verità la indagava la filosofia. Ecco, io credo che ci sia la possibilità, che forse non dovremmo averne paura, ecco, non dovremmo immediatamente sentirci nei panni appunto di Robespierre che dice ok, adesso ve lo spiego io, no? Però quel ve lo si conta noi com'è che andò, innanzitutto è un noi e non è un io, appunto, e come diceva Franco all'inizio sono tante voci in realtà, però quelle tante voci ce l'hanno un filo conduttore con tutte le loro contraddizioni e i loro slittamenti? Secondo noi sì, ecco, secondo noi è possibile orientarsi e questa è la differenza forse con Martin, appunto, al quale forse frega meno di tutto questo. Io volevo fare una domanda semplice, io il libro non l'ho letto, quindi la domanda è a priori e non è provocatoria. Volevo sapere se nella costruzione del personaggio femminile voi vi siete avvalsi anche di uno sguardo femminile nella scrittura oppure se lo avete ricostruito sulla base della vostra idea, ecco. C'è altro? Ci sono altri? Vai Emilio. No, mi è incuriosito moltissimo questo baratto che fanno i sonnambuli. No, tranquillo. La rinuncia ai desideri per una possibilità in più di vittoria, no? Mi faceva pensare la vittoria che in fondo non è più uno strumento per ottenere qualcos'altro, per realizzare un progetto, ma diventa fine in se stesso, un po' come il denaro, no? È come se bastasse un simulatore, un videogioco, no? Per appagare l'unico desiderio rimasto, forse, no? È l'ultima chiamata, eh? Scantato. quasi obbligato, no, più che una domanda è una considerazione anche per coinvolgere Bifo, soltanto se ha voglia di ritornare a qualche decennio fa. Anche se secondo me la questione era centrale perché poi segna un po' ciò che è successo fino a oggi e che coinvolge il rapporto fra produzione materiale e immateriale. Mi rivolgo un po' a Totò e a quello che aveva detto sul rapporto fra fuoco e racconto. Un po' era l'accusa che facevano a voi, credo Umberto Eco, che sosteneva appunto narrare la rivoluzione non corrispondeva effettivamente alla rivoluzione, e addirittura Majakovskij provocandovi, che secondo te era ancora vivo perché la sua pistola avrebbe avuto altro da fare negli anni 70 a Bologna, sarebbe stato uno dei tanti scrittori dei circoli moscoviti se non ci fosse stata la presa del Palazzo d'Inverno. Grazie. E loro cosa avrebbero detto? Se tu volevi anche di nuovo dire qualcosa, soprattutto se poi nell'intervento conclusivo dite anche due parole su, come dire, alcune cose che stanno succedendo all'interno del vostro gruppo, per esempio appunto il disco uscito con lo Wuming Contingent, di cui io sono un estremo fan, assieme a Pietrino, però lui c'ha 18 anni, io ne ho 40. E anche su questo, cioè, com'è tornare a fare la rockstar a 40 anni? Che l'anno scorso con Antonio dicevamo dai, riprendiamo a suonare, poi c'era la bambina che piangeva. No, e anche su una questione che accennava, a cui accennava Franco, che ne sarà di questo gruppo? E rispetto anche a un vostro post terrorizzante uscito a una settimana dalla pubblicazione dell'Armata, che diceva questo è l'ultimo storico, ad oggi in poi si cambia vita, ragazzi, state attenti. Bella domanda. Nei due sensi, bella domanda, cazzo, ma anche bella domanda. Cioè, dunque, tanto per cominciare devo dire la verità, Umberto Eco aveva molte più ragioni di quante noi riconoscessimo e soprattutto di quante noi fossimo disposti a riconoscergli. Allora, qual è la questione? Perché probabilmente non tutti conoscono la faccenda. E Eco nella primavera del 77 disse per l'appunto che bisognava distinguere fra la narrazione o comunque la narrazione e il processo, e a questo noi in particolare io ed alcuni altri, Angelo Pasquini ad esempio, che era ed è scrittore, sceneggiatore, rispondevamo questa distinzione va cancellata, la scrittura scrive attraverso, scrive nel processo medesimo e non vi è altra scrittura che possa interessarci. E il riferimento era naturalmente Majakovskij, il quale avrebbe per l'appunto scritto per volontà dell'ottobre e nel processo stesso. Noi, come le persiane di casa nostra, ogni giorno aprivamo le finestre dei libri rivoluzionari. Ecco, benissimo. Non voglio farmi nessuna autocritica a quel proposito, no? Il gioco delle parti in quel momento era del tutto evidente, consapevole e quasi più forte di noi. Ma perché Eco aveva più ragioni di quante noi fossimo disposti ad ammetterle? E non fateglielo sapere. Perché, tra le altre cose, Eco parlò della radio come di una sorta di terzo occhio, la radio, i media in generale, la capacità dei movimenti di impadronirsi, non mi piace, di diventare il soggetto attivo della narrazione mediatica. Ecco, questo era un passaggio, diciamo, il suo McLuhan in un certo senso. Vedeva più del nostro Majakovskij alla lunga. Perché? Perché il contributo di Eco in quel caso, poi alla fine concluderò fra pochi secondi, evitando di beh, insomma, ecco, in quella situazione ci stava dicendo che la narrazione mediatica o letteraria diventava il processo stesso, cioè vedeva che nell'epoca che possiamo chiamare del lavoro cognitivo, del semiocapitalismo, dell'invadenza dell'immaginario nella vita quotidiana, eccetera, produrre narrazione non è di per sé distinto dal processo, e dunque non occorre togliersi la camicia per gettarsi nella mischia come scrittori, come o come persone medio, come agenti del processo mediatico, eccetera. Sei comunque nel processo. Ecco, per questo voglio dire, ecco, vedeva forse più lontano di noi, forse suo malgrado, ma è un fatto, e di cui io mi devo dire, adesso non la sto a fare lunga, politicamente avevamo ragione noi in quel momento, ma nella prefigurazione della trasformazione di lungo periodo nel rapporto tra flusso immaginario, flusso linguistico e processo storico, beh, vedeva delle cose che noi non vedevamo o che non vedevamo appieno. Faccio una breve risposta sulla lo sguardo femminile, che è un punto d'arrivo, è stato un approdo, un parto lunghissimo. Noi non è un segreto che siamo un collettivo tutto al maschile, e quindi il nostro principale problema è sempre stato questo. Tant'è vero che, come dire, alla buon'ora finalmente le lettrici ci fanno sapere che siamo riusciti a partorire un personaggio femminile che funziona. La protagonista femminile dell'Armata dei Sonnambuli, Marie Nosière, però appunto ci sono voluti un bel po' di romanzi per arrivarci, ci siamo arrivati per gradi, ecco, diciamo così, ci siamo avvicinati piano piano. Quando ti metti a scrivere ti vengono fuori tutta una serie di tic che tu pensi di essere open-minded, no? Di sinistra, no? Cazzo. Quando ti ritrovi lì, leggi, ma che cazzo ho scritto? Ma cioè, veramente? E quindi, per fortuna, poi siamo in quattro, quindi uno lo dice all'altro e tutti assieme. E sì, ci si avvale anche, ovviamente, di lettrici esterne, diciamo, in alcune scene sono state fatte leggere in anteprima, perché, insomma, per essere certi che non sembrassero ridicole, ecco. Ci sono alcune scene di sesso, alcune scene di nudità femminile, eccetera, in particolare, in cui è stato indispensabile, anche per andare avanti un attimino più a cuor leggero, e non avere lì quel pallino che poi sarebbe calata la mannaia, e ci sono state molto molto utili queste lettrici. Poi abbiamo invece i progetti futuri? Beh, poi tra l'altro diciamo che inglobiamo come coautrici, senza chiedere il loro permesso, anche scrittrici o storiche, nel caso della partecipazione delle donne alla Rivoluzione Francese. Il saggio di riferimento è di una storica che si chiama Dominique Godinot, che ha scritto Citoyenne Tricoteuse, cioè cittadine magliare, che ci è stato molto utile, quindi diciamo che è una delle coautrici del romanzo, a sua insaputa, non gliel'abbiamo chiesto. Rapidissimo sulla questione del desiderio, sì, è un po' come se invece del desiderio questi sonnambuli sostanzialmente cedessero a una voce che invece gli dice godi subito, no? Non desiderare, vinci subito. Questa è la seduzione, diciamo il meccanismo della seduzione fondamentale che fa diventare sonnambuli questi soggetti, è quello. è l'immediatezza in qualche modo del godimento e quindi della vittoria fine a se stessa che viene proposta. Rispetto ai progetti futuri, alle cose, dunque, beh, sì, effettivamente abbiamo messo in piedi una band, già lo siamo come scrittori, ma abbiamo come narratori, abbiamo messo in piedi una band di punk rock più o meno, new wave, insomma, con genere di musica che ascoltavamo da ragazzini, e questo perché io in particolare ho fatto molti spettacoli di reading, declamazione con musicisti, e poi a un certo punto ci siamo accorti che appunto in realtà di musicisti nel collettivo ce n'era uno, che è Riccardo Pedrini, Vumin 5, che è stato chitarrista per tanto tempo dei Nabat. E quindi che invece di andare a cercare sempre gruppi musicali, altri musicisti che mi accompagnassero in queste declamazioni, forse si poteva fare qualcosa insieme. Quindi io e Riccardo poi abbiamo in qualche modo scritturato un amico bassista e un batterista, e a quel punto ci siamo detti: beh, non facciamo di nuovo un reading, di nuovo una declamazione, le cose che in qualche modo avevamo già fatto, ma proviamo a fare una band, a utilizzare come testi, rimaneggiandoli, dei racconti scritti dal collettivo, e provare quindi a portare in giro le nostre storie con quest'altro strumento. Noi ce lo siamo detti fin dall'inizio che volevamo essere narratori con ogni mezzo necessario. È chiaro che alcuni dei mezzi necessari a raccontare li sappiamo maneggiare, altri no. E quindi questo ci porta a tanti progetti di collaborazione. Adesso praticamente noi giriamo con una valigia che rappresenta anche questi progetti di collaborazione, perché molte di queste cose diventano poi autoproduzioni o produzioni per piccole case editrici, piccole etichette, e quindi spesso soggetti che fanno fatica a essere distribuiti, e quindi diciamo ce li portiamo dietro quasi porta a porta, e appunto mettiamo in piedi banchetti nei quali, per esempio, oltre appunto al disco, oltre al CD, ci sono interpretazioni del romanzo in altre forme. Noi non sappiamo maneggiare la grafica, c'è chi lo sa fare, ha fatto per esempio un poster in letterpress dell'Armata dei Sonnambuli, cioè con la tecnica dei caratteri mobili e l'inchiostro steso a mano, che è uno strano metodo per fare serialmente dei pezzi unici, perché l'inchiostro chiaramente si distribuisce in maniera diversa tutte le volte, che quindi possono essere numerati. Un altro lettore ha fatto il logo che vedete sulla maglietta del mio socio con la ghigliottina e la scritta Cura Robespierre. Cura Robespierre è un titolo di una delle canzoni del gruppo. Lui ha interpretato che noi suggerissimo come cura appunto la ghigliottina per questi tempi idioti e per i moderati. Il testo dice appunto Cura Robespierre per i moderati, ma in realtà appunto la cura Robespierre potrebbe anche essere il conflitto, no, in qualche modo, e la ghigliottina essere un simbolo di questo. E rispetto alla questione: questo è il nostro ultimo romanzo storico. Beh, probabilmente Franco ha colto bene il fatto che abbiamo chiuso un ciclo, no? E ha iniziato dicendo questo, e ce ne siamo resi conto anche noi. Cioè, con questi strumenti del romanzo storico noi sentiamo di essere arrivati a un punto oltre il quale ci ripeteremmo. Non siamo in grado di migliorare oltre su questa strada, almeno al momento. E quindi ci sembra giunto il tempo di provare qualcos'altro, qualcosa nel quale invece abbiamo margini di miglioramento, possiamo fare nuovi esperimenti, e chissà, cogliere magari anche quell'indicazione che ci veniva data, no? Rispetto al immaginare anche il futuro. Probabilmente in realtà ci continueremo ad occupare di storia, ci continueremo ad occupare dell'incrocio tra finzione e non fiction, tra realtà e parola, no? Però forse lo faremo con metodi nuovi, con composizioni differenti, insomma, utilizzando altre strade. Questo è è quello che vogliamo provare a fare al momento, quello che stiamo scrivendo per così dare un aprire, dare uno scoop. No, vabbè, non è un, l'abbiamo già detto altre volte, però è un libro di racconti per bambini, ci piace dirlo visto che appunto il vostro spazio si propone anche per sostituire, diciamo così, una ludoteca chiusa. È un libro di racconti per bambini tra gli 8 e i 12 anni più o meno, bisogna cominciare a prenderli da piccoli, nei quali i racconti sono ispirati da mappe. Cioè noi prendiamo delle mappe di luoghi e o raccontiamo la storia di quel luogo, tra cui anche luoghi storici come il Vajont, per esempio, spiega a un bambino che cosa è successo, no? Oppure ci inventiamo a partire dalle mappe una storia di finzione, oppure ancora raccontiamo una leggenda legata a quel luogo. Questa è un po' la modalità. Abbiamo messo insieme una ventina di racconti e questo Canta la mappa è il nostro prossimo progetto. Io la chiuderei qua. Ricordo che Buchinista continua domenica sera il 19 con la presentazione della Ferocia di Nicola La Gioia e il 21 sera alle 8:30 con Francesco Maino Cartongesso. Invito tutti ora a passare da Book per l'aperitivo e venire domani a Nuove Pratiche Fest e sabato all'Inutile Fatica di Essere Se Stessi. Un applauso a tutti gli intervenuti, a Franco e a tutti i bambini che hanno provato in tutti i modi. Detti. La biblioteca è aperta tutti i lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio e mattina. La domenica facciamo una riunione ogni lunedì alle 7, chiunque voglia venire è aperta.